Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Radiobook. Sono Giulia Mastrantoni e sono felicissima di avervi di nuovo con me. Anche questa settimana avremo un'intervista. La persona che intervisteremo oggi è un'autrice, si occupa di violenza di genere, è una blogger e fa mille altre cose. Si chiama Lorena Lucciarini e la conosco già da un po' di tempo. Sono felicissima di averla con me e ho moltissime domande da farle. Un saluto a tutti, mi fa piacere essere qui. Io Lorena, da quanto tempo scrivi e di quali generi ti occupi? ho sempre scritto da quando ero bambina, all'inizio perché amavo disegnare e fare dei fumetti, quindi sceneggiavo i miei fumetti. Poi la passione disegno si è un po' affievolita negli anni ed è proseguita invece la passione scrittura, quindi ho iniziato veramente a strutturare i miei lavori in maniera diversa. E nel corso della mia vita ho affrontato vari generi letterari e infatti la mia produzione è molto variegata in questo senso. Ho infatti tre volumi di poesie dal titolo Little Two, Short Stories, I legami sottili dell'anima e poi c'è anche Sotto le nuvole. Abbiamo pubblicato recentemente con Arpeggio Libero il fantasy per ragazzi dal titolo Una fantastica caccia al tesoro e poi c'è anche il mio romance dal titolo Il cielo d'Inghilterra. C'è infine la favola per bambini che sempre con Arpeggio Libero fa parte della collana di favole di gioia e la mia favola si intitola Si può volare senza ali. Questa è una collana di favole che sostiene il lavoro di Emergency. Inoltre è uscito anche un racconto che tratta lo stupro etnico in Bosnia e fa parte di un volume contro la violenza sulle donne, dal titolo Quattro petali rossi, frammenti di storie spezzate, anche questi di Arpeggio Libero e sostiene il lavoro di un centro antiviolenza. E altri lavori sono tutti di genere intimistico e comunque di analisi e valutazione di sfondo sociale, quindi mi piace comunque affrontare vari generi, ma tendenzialmente ecco appunto la mia prerogativa è questa. Comunque il discorso fondamentale nella mia testa strana di artista scrittrice è quello di dare alla storia che arriva a me per essere raccontata la forma migliore per farla splendere, quindi a seconda della storia che c'è da raccontare decido di adottare uno stile o un genere differente piuttosto che l'altro. Perché sensibilizzare contro la violenza di genere attraverso dei racconti? Su questa tematica drammatica della violenza contro le donne è importantissimo fare sensibilizzazione, oltre che operare a contrasto del fenomeno. La sensibilizzazione è importante perché porta lentamente a dei cambiamenti radicati e importanti nella società. Con per esempio il volume nostro di Quattro petali rossi, frammenti di storia spezzata, abbiamo voluto proprio unire l'opera di sensibilizzazione all'azione concreta. La sensibilizzazione si è fatta attraverso i racconti, dove ognuna di noi autrici ha raccontato. Ha narrato le vicende della protagonista, quindi rispetto alla violenza subita, per tentare un po' di creare empatia da parte del lettore, mentre poi con l'opera stessa del volume noi andiamo a creare qualcosa di concreto, infatti le vendite vanno a sostenere il lavoro di un centro antiviolenza rispetto a una casa rifugio per donne maltrattate. Ed è importantissimo perché se ne parla sempre troppo poco e quando se ne parla male, lo si fa per spettacolarizzare, per creare aspettativa e suspense rispetto ai temi, ma non mai per trovare delle soluzioni o per tentare di arginare il fenomeno a livello culturale e soprattutto sociale, perché il fenomeno della violenza sulle donne è un fenomeno che ha radici nella nostra cultura, quindi nella società, nelle dinamiche tra uomo e donna, che comunque vanno analizzate in tantissimi aspetti a livello sociale, culturale, psicologico. Però va realmente fatto qualcosa perché qua ci sono situazioni assurde e notizie assurde, qua ogni giorno si porta via una donna come noi nella violenza, nella sofferenza e nel dolore. E io per quanto mi riguarda come donna voglio veramente tentare di fare qualcosa almeno per cambiare questo stato di cose. Che cosa arriva prima, la trama o il personaggio? Questa è una domandona proprio. Io personalmente come scrittrice non so proprio dirtelo. Nel senso che a volte non arriva né la trama né il personaggio, ma arriva un'emozione, un'immagine o addirittura il finale della storia senza, con tutto un carico emotivo di immaginario. E su cui poi io costruisco l'intera narrazione. A volte è semplicemente solo una musica oppure un profumo. È molto complesso l'elaborazione di una storia, cioè il processo creativo è, almeno per quanto mi riguarda, veramente complicato da definire, anche perché ogni volta è diverso e ogni volta si basa su dinamiche differenti, sia per quanto riguarda la poesia che per quanto riguarda la narrativa. Ogni storia che ho raccontato non è mai nata nello stesso modo, a volte è solo il personaggio che dà forza a tutto, altre volte invece è la storia la cosa fondamentale, i personaggi nascono ed evolvono man mano durante il processo di scrittura. Quindi veramente complicata, spero di aver dato degli input per ragionare sopra su questa cosa, ma onestamente non so dare delle risposte. La top 3 delle cose più sbagliate che un autore emergente può fare. Anche questa è una domanda molto interessante, cercherò di essere molto schematica nella risposta. Capita che un emergente poi, una volta pubblicato, abbia il primo anno di gloria, dopodiché lo troviamo nel dimenticatoio. Spesso moltissimi autori, dopo la prima esperienza di pubblicazione non del tutto positivo o comunque un po' deludente secondo le proprie aspettative, smette di scrivere e decide di fare altro. Abbiamo un tasso d'abbandono molto alto. Le cose fondamentali, che secondo me i tre aspetti che uno deve tenere presente, è che uno, non si finisce mai di imparare, non si arriva mai, bisogna continuare ad essere umile e pensare di non essere arrivato, perché pubblicare un libro è il primo passo verso un cammino molto lungo che necessita appunto di movimento e di continua crescita personale. Il secondo errore è peccare di supponenza e di arroganza, pensare che il proprio scritto sia l'unico del mondo, un capolavoro rispetto ad altri lavori di altri colleghi che hanno impiegato lo stesso tempo, la stessa energia, la stessa creatività per fare un lavoro differente, e sminuire questo lavoro sicuramente non ci aiuta in quanto ci impedisce di essere critici con noi stessi e di capire se il nostro lavoro ha delle potenzialità o va migliorato oppure va sistemato. E questo è uno degli errori che vedo fare tantissimo ai giovani esordienti. Anche come blogger mi si approcciano chiedendomi delle recensioni e poi hanno questa supponenza, l'arroganza di trovare immediatamente una risposta positiva, di vedersi immediatamente la recensione pubblicata, a discapito magari di altri autori che in quel caso stavano in lista d'attesa. Quindi non lo trovo corretto nei confronti degli addetti ai lavori o dei propri colleghi, e tantomeno per se stessi, perché questo impedisce appunto a un autore di rimanere umile e di crescere. Il terzo errore è, una volta pubblicato il proprio libro, magari aver avuto un discreto successo, si rischia di avere delle aspettative e quindi di farsi limitare da queste, soprattutto nella libertà di espressione. Un autore diventa famoso con un giallo e pensa che d'ora in poi dovrà scrivere sempre esclusivamente gialli di quel genere, altrimenti poi i lettori verranno delusi. Io su questo non sono d'accordo. Scrivere è libertà e soprattutto bisognerebbe farlo con la consapevolezza che scrivendo non si arriva da nessuna parte, non si smette di lavorare, non si fa solo quello nella vita, e quindi perché non divertirsi? Perché continuare a scrivere ciò che ci piace fare, è la cosa più bella del mondo, anziché limitarci appunto da strategie di mercato, di aspettative o di ciò che noi vorremmo fare per non deludere gli altri. Ecco, questo secondo me trovo sia un grosso limite e veramente che brucia tutta la creatività di un autore. Un messaggio per le donne? Noi donne siamo tessitrici di legami, abbiamo la sensibilità per unire, per creare, costruire, aggiustare, far evolvere, migliorare. Tutte queste capacità ci rendono persone straordinarie. Non facciamoci tarpare le ali, non permettiamo alla società o al nostro uomo, a chi ci è vicino, di permettere di usarci violenza, di toglierci la luce che abbiamo dentro. Chiediamo aiuto e sicuramente troveremo dentro di noi quella forza straordinaria che abbiamo sempre nei momenti di difficoltà, che anche se ne dubitiamo poi alla fine c'è dentro di noi per uscire da questa situazione. E lo dico perché lo credo fortemente, ognuno di noi nella propria vita ha trovato momenti di difficoltà, ma c'è sempre questa forza straordinaria che non ci abbandona mai. Insieme addirittura siamo addirittura straordinarie e portentose, perché siamo in grado di fare collaborazioni, costruire delle cose straordinarie, avere delle sinergie creative incredibili. Quindi ricordiamoci che siamo esseri di luce, sempre. Sempre, anche se siamo nel buio. Come vi ha raccontato la stessa Loriana, le sue opere si occupano soprattutto di violenza di genere, ma non solo. Infatti, di uno dei suoi romanzi più belli è Il cielo d'Inghilterra, che poco ha a vedere con la violenza di genere. Vi leggo la quarta di copertina. Cosa fareste se un'anziana vedova inglese vi nominasse erede del suo ingente patrimonio strappandovi alla tranquilla pensione che gestite con i vostri genitori nel centro di Roma? È quello che capita a Cristina, la cui tranquilla esistenza viene sconvolta dalla notizia della morte di una signora conosciuta tempo prima e che ha deciso del tutto inaspettatamente di farla sua erede. Così Cristina è costretta a tornare in quella stessa Inghilterra dove già in passato ha lasciato un pezzo di cuore e a rivedere anche Steve, che non è mai riuscita a dimenticare, nonostante dopo il suo ritorno a Roma non l'abbia più cercata. Ma soprattutto Cristina dovrà fare i conti con le convenzioni sociali dell'alta nobiltà inglese, che pretenderanno di cambiarla nel carattere e nei modi, stravolgendo tutti i valori in cui lei ha sempre creduto. Ambientato tra Roma e Londra, si tratta di una storia delicata dove i veri sentimenti vincono e dove le convenzioni della nobiltà inglese non riusciranno a cambiare il carattere della protagonista, che lentamente acquisterà la determinazione necessaria per fare le proprie scelte. E come ogni settimana, anche oggi leggeremo un estratto. Ho scelto di leggervi un breve estratto di Il cielo d'Inghilterra, per poi concludere alla fine con due brevi parole dette da Tamara Marcelli a proposito di Quattro petali rossi. «Come può farmi una cosa del genere? Con che sentimenti?» sbotta irritata, avvampando in volto e cercando di dominarsi ma non riuscendoci affatto. «Cristina, proprio ti cercavo», la chiama lo zio David, affacciandosi alla porta e cogliendola di sorpresa. «Sì, cosa c'è?» balbetta imbarazzata e arrossendo ancora di più. «È arrivato adesso un regalo per te. Vieni a vedere», le comunica l'uomo rimanendo indifferente al suo turbamento. «Per me?» gli risponde di rimando Cristina, alzandosi velocemente dalla sedia e seguendolo lungo il corridoio. Arrivati sulla soglia della porta, trova già lì radunate Mary e Susan, che elettrizzate e incuriosite la tempestano di domande. Anche Steve è presente, più distante, quasi in penombra, sul pianerottolo delle scale. «Ma brava, prima le rose, ora questo. Hai dei segreti ammiratori e non ce lo dici», la riprende Susan mettendo il broncio. «Aprilo», le intima con inaspettata vivacità Mary. Cristina prende l'astuccio blu notte. È grande lo stupore nell'aprirlo e trovarci dentro un bellissimo, luminosissimo collier di strass. Con dita frementi prende il bigliettino che l'accompagna e lo apre velocemente in preda alla più viva curiosità. Resta ancora più allibita leggendo il misterioso messaggio scritto con calligrafia decisa e fluida. «Le parole forse non riescono a esprimere quanto il mio cuore sente. Soltanto queste stelle possono illuminare il tuo viso nella notte e dirti ancora mille volte grazie». Questo è l'estratto di Il cielo d'Inghilterra. E adesso vorrei concludere dicendo due parole a proposito di Quattro petali rossi. Come vi accennavo, non si tratta di una mia recensione personale, ma di una recensione che ha pubblicato la blogger Tamara Marcelli sul blog degli scrittori della Porta Accanto. Tamara dice che si tratta di un libro che racchiude quattro racconti scritti da quattro autrici. Si tratta di quattro storie di donne che sono rimaste imbrigliate nella rete di qualcosa di molto più grande di loro. Un male che può avere molteplici forme, presentarsi come fiori, dolci parole, ricordi ovattati, sintomi incomprensibili, ma che non tarderà a mostrarsi per quello che realmente è. Si tratta di una forza distruttrice. Quattro petali rossi infatti sostiene il centro antiviolenza Be Free per il progetto Casa delle Donne della Marsica, una zona dell'Abruzzo. E in caso della vendita del libro vanno a ricostruire la strada della rinascita delle donne che hanno rivissuto l'inferno. Bella da rubare è il racconto di Arianna Berna, che affronta il tema dello sfruttamento dell'immagine femminile e dell'abuso del corpo delle donne. La protagonista si ritroverà a suo malgrado in un incubo che rischierà di distruggerle la vita, come pure le sue certezze, gli affetti e la vita professionale. Il coraggio di raccontare, invece, è il racconto della nostra Lorianna Lucciarini. È un pugno nello stomaco, come lo definisce Tamara Marcelli. Infatti Lorianna ci catapulta in un passato non troppo lontano, in una parte di storia contemporanea difficile e scomoda da raccontare. Ci mostra crudeltà e orrore. Infatti l'uomo, ignobile bestia, è stato capace di compiere atti orribili. Ma il coraggio delle donne di risorgere dalle proprie ceneri è il reale fulcro del racconto. La morale è riuscire ad affrontare i propri mostri e pretendere giustizia, perché solo allora si potrà ricominciare a vivere. Bisogna avere il coraggio di darsi un'altra possibilità, altrimenti il male vincerebbe sempre e comunque. Equilibrio perfetto è il terzo racconto, ed è stato scritto da Monica Coppola. Si tratta di una storia che inizia a New York e termina nelle montagne del Torinese. La protagonista è Anne, una ragazza che per scappare ai suoi incubi decide di vivere isolata in un vecchio rustico di famiglia nella provincia sabauda. Lì il destino le metterà di fronte ai suoi dolori e ai suoi dubbi, che la riporteranno a percorrere la tragica scomparsa della madre e la figura ambigua del padre, a cui sentirà il dovere di chiedere perché. L'ultimo racconto è di Silvia De Vito Francesco, ed è Una gabbia di vita. È una storia che potrebbe essere quella di molte donne. La protagonista è Alba, una ragazza che ama la vita e sogna l'amore, quell'amore che si vede nei film, che si canta nelle canzoni e che si vive con ogni millimetro del proprio corpo. Quell'amore arriva, quasi casualmente, e ribalta tutte le sue certezze. Diventa totalizzante, annulla ogni contatto con l'esterno e con gli affetti genuini e sinceri che rappresentavano una difesa. Lui diventa il fulcro intorno al quale gira tutto e dentro a cui Alba rimane vorticosamente intrappolata. Quattro petali rossi nel complesso è consigliato per la qualità della scrittura e per lo spessore delle storie raccontate, oltre che per essere un progetto nobile. Non posso che concludere questa puntata augurandomi di avervi trasmesso qualcosa e ringraziando la nostra Loriana. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana.